Fa freddo, fa molto freddo. Questa è un po' una nostra ossessione, come diceva Marco. È il fatto che vorremmo che questo pezzo venisse abbastanza bene, perché comunque è stato abbastanza studiato, è forse uno dei pochi pezzi che non facciamo in maniera quasi del tutto improvvisata, a parte quelli che abbiamo suonato. From here.